Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. I lavoratori dipendenti, i professionisti e i pensionati devono iscriversi alla gestione separata se svolgono anche un'altra attività parasubordinata? Sì, anche i lavoratori dipendenti o autonomi, o i liberi professionisti con cassa e anche i pensionati devono iscriversi e versare alla gestione separata se si trovano a svolgere un'attività parasubordinata o un'attività autonoma diversa da quelle in base alle quali sono iscritti alla propria cassa. A differenza di coloro che non sono iscritti ad altra cassa o che non sono pensionati, però, l'ammontare del contributo destinato alla gestione separata è più basso.